le prime mosse del nuovo governo fan ben sperare in vista dell'inverno. Parole d'ordine alleggerire, tagliare quel che pesante ci fa sprofondare. E dopo il taglio del professore, e dopo quello delle ore, taglieranno le scuole e le classi e anche gli allievi, ma solo i più grassi. Perché la vita e l'economia non hanno bisogno della geometria, e l'identità di questo paese non ha bisogno dell'inglese. Perché la crescita del bambino non ha bisogno di greco e latino, e per andare tutti un bel giorno su Marte non serve studiare oggi la storia dell'arte. Anche all'università, perché da Capopassero fino a Perca nessuno ha bisogno più della ricerca. E infine si taglieranno anche i libri, e coi ritagli si farà quel che si vorrà, perché c'è di bisogno di libere persone per fare rinascere questa vecchia nazione. Le prime mosse del nuovo governo fan ben sperare in vista dell'inverno. Parole d'ordine alleggerire, tagliare quel che pesante ci farà sprofondare.